ciascuna delle persone che ci fanno soffrire, possiamo collegarla a una divinità di cui essa non è che un riflesso frammentario, è il grado più basso, divinità, idea, la cui contemplazione ci dà subito gioia in luogo della pena che sentivamo. Tutta l'arte di vivere consiste proprio nel servirci delle persone che ci fanno soffrire come di un gradino che ci consente d'accedere alla loro forma divina e di popolare dunque gioiosamente di divinità la nostra vita. Allora, meno radiosa certo di quella grazia alla quale mi era stato rivelato che l'opera d'arte è l'unico mezzo per ritrovare il tempo perduto, si fece in me una nuova luce e capii che erano tutti quei materiali dell'opera d'arte la mia vita passata. Capii che erano venuti a me nei piaceri frivoli, nell'ozio, nella tenerezza, nel dolore che li avevo immagazzinati senza intuire la loro destinazione, la loro stessa sopravvivenza, più del seme quando mette in serbo tutti gli alimenti che nutriranno la pianta. Come il seme, avrei potuto morire quando la pianta si fosse sviluppata e mi rendevo conto d'essere vissuto per lei senza saperlo, senza aver mai supposto che la mia vita sarebbe entrata in contatto con i libri che avrei voluto scrivere e per i quali un tempo, quando mi mettevo a tavolino, non trovavo argomenti. Così tutta la mia vita, sino a quel momento, avrebbe e non avrebbe potuto essere riassunta sotto il titolo «Una vocazione». Non avrebbe potuto, perché la letteratura non aveva svolto alcun ruolo nella mia vita. Avrebbe potuto, perché questa vita, il ricordo delle sue tristezze, delle sue gioie, formavano una riserva simile all'albume contenuto nell'ovulo delle piante, da cui questo trae il nutrimento per trasformarsi in seme quando ancora si ignora che si sta sviluppando l'embrione della pianta, già sede tuttavia di fenomeni chimici e respiratori segreti, ma molto attivi. Allo stesso modo, la mia vita era in rapporto con ciò che la sua maturazione avrebbe prodotto, e quelli che in seguito se ne sarebbero nutriti avrebbero ignorato, come chi mangia certi alimenti, che le ricche sostanze in essi contenute, prima d'esser fatte per il loro nutrimento, hanno nutrito il seme e consentito la sua maturazione. In questa materia, gli stessi paragoni che sono falsi come punti di partenza possono essere veri come punti d'arrivo. Il letterato invidia il pittore, vorrebbe buttar giù degli schizzi, degli appunti. È perduto se lo fa. Ma quando scrive, non c'è gesto dei suoi personaggi, tic, accento, che non sia stato fornito alla sua ispirazione dalla sua memoria. Non c'è nome di personaggio inventato, accanto al quale non si possano mettere 60 nomi di personaggi veduti, di cui uno ha posato per la smorfia, l'altro per il monocolo, questo per l'irascibilità, quello per il movimento sussiegoso del braccio, eccetera. E allora lo scrittore si rende conto che se il suo sogno d'essere pittore non era realizzabile in modo cosciente e volontario, gli è accaduto pur tuttavia di realizzarlo e che ha messo insieme anche lui, senza saperlo, il suo album di schizzi. Infatti, mosso dal suo istinto, lo scrittore, assai prima di sapere che sarebbe diventato tale, tralasciava regolarmente di guardare una quantità di cose che gli altri osservano con attenzione, ragione per cui gli altri lo accusavano di distrazione e lui stesso si accusava di non saper ascoltare né vedere, mentre per tutto quel tempo egli dettava ai propri occhi e alle proprie orecchie di ricordare per sempre cose che agli altri sembravano puerili piccolezze, l'accento con cui era stata pronunciata una frase, l'espressione del viso, il movimento delle spalle fatto a un certo punto parecchi anni prima, da una persona di cui magari non sa nient'altro. E questo perché quell'accento l'aveva già sentito o intuiva che avrebbe potuto risentirlo, che era qualcosa di rinnovabile, di durevole. È lo stesso senso della generalità a scegliere nello scrittore ciò che è generale e potrà entrare nell'opera d'arte. Perché li ha ascoltati gli altri, solo quando, per stupidi o pazzi che fossero, ripetendo come pappagalli quanto dicono le persone della medesima natura, si erano fatti per ciò stesso gli uccelli profeti, i portavoci di una legge psicologica, non ricorda altro che il generale. Attraverso quegli accenti, quei movimenti fisionomici, anche se visti nella sua infanzia più remota, la vita degli altri è rappresentata in lui. E quando, più tardi, si metterà a scrivere, comporrà, con un movimento delle spalle comune a molti, vero come se fosse annotato sul quaderno d'un anatomista, ma atto ad esprimerla, una verità psicologica, e innesterà su quelle spalle un movimento del collo fatto da un altro, in modo che ciascuno avrà collaborato con il suo istante di posa. Non è sicuro che per creare un'opera letteraria l'immaginazione e la sensibilità non siano qualità intercambiabili e che la seconda non possa sostituirsi senza troppi inconvenienti alla prima, così come certuni il cui stomaco è incapace di digerire fanno carico di questa funzione all'intestino. Un uomo, nato sensibile ma senza immaginazione, potrebbe scrivere, malgrado ciò, dei romanzi stupendi. La sofferenza provocatagli dagli altri, i suoi sforzi per prevenirla, i conflitti creati dalla sofferenza e da una seconda persona crudele, tutto ciò, interpretato dall'intelligenza, potrebbe costituire la materia di un libro non solo altrettanto bello che se fosse immaginato, inventato, ma anche altrettanto indipendente dalle fantasticherie dell'autore che se questi fosse stato libero e felice. Altrettanto sorprendente per lui stesso, non meno accidentale di un fortuito capriccio dell'immaginazione. Gli esseri più stupidi manifestano con i loro gesti, i loro discorsi, i loro sentimenti involontariamente espressi, delle leggi di cui non s'avvedono, ma che l'artista sorprende in loro. A causa di questo genere d'osservazioni, il volgo crede cattivo lo scrittore e lo crede a torto, perché in una persona ridicola l'artista vede una bella generalità che non mette a carico della persona imputata più di quanto il chirurgo stimerebbe di meno qualcuno perché affetto da un disturbo circolatorio piuttosto frequente. Delle persone ridicole, anzi, si prende gioco meno di chiunque altro. Disgraziatamente, è più infelice che cattivo. Quando si tratta delle sue proprie passioni, pur conoscendone altrettanto bene la generalità, si sottrae meno facilmente alle sofferenze personali che ne derivano. Certo, quando un insolente ci insulta, preferiremmo che ci avesse invece lodati. E soprattutto, quando una donna che adoriamo ci tradisce, cosa non daremmo perché così non fosse stato? Ma il risentimento dell'affronto, i dolori dell'abbandono, sarebbero stati allora per noi territori per sempre sconosciuti, mentre la loro scoperta, sebbene penosa per l'uomo, è preziosa per l'artista. Così, malgrado lui, malgrado loro, i malvagi e gli ingrati figurano nella sua opera. Il libellista associa involontariamente alla propria gloria la canaglia che ha bollato. In ogni opera d'arte è possibile riconoscere quelli che l'artista ha più odiati e anche, ahimè, quelle che più ha amate. Anche queste ultime non hanno fatto che posare per lo scrittore nel momento stesso in cui, suo malgrado, più lo facevano soffrire. Quando io amavo Albertine, mi ero ben reso conto che lei non mi amava e avevo dovuto accontentarmi che mi facesse semplicemente capire cosa significa provare sofferenza, amore e anche, all'inizio, felicità. E quando cerchiamo di estrarre quel che c'è di generale nella nostra pena, quando cerchiamo di scriverne, siamo forse un po' consolati da un'altra ragione ancora diversa da quelle esposte fin qui, e cioè che pensare in termini generali, scrivere, è per lo scrittore una funzione sana e necessaria, il cui compimento rende felici, come per gli uomini fisici l'esercizio, il sudore e il bagno. Io, per dire il vero, un po' mi ribellavo a questa idea. Per quanto fossi convinto che la verità suprema della vita è nell'arte, e d'altra parte che ero incapace dello sforzo di memoria necessario per amare ancora Albertine o per piangere ancora la nonna, mi chiedevo tuttavia se per loro, per il destino di quelle povere morte, un'opera d'arte di cui non potevano essere consapevoli sarebbe stata un compimento. La nonna, che con tanta indifferenza avevo visto agonizzare e morire accanto a me. Almeno avessi potuto, in espiazione, una volta terminata la mia opera, soffrire per lunghe ore, ferito senza rimedio, abbandonato da tutti prima di morire. Provavo d'altronde una pietà infinita per esseri anche meno cari, anche indifferenti, per tanti destini di cui il mio pensiero, cercando di capirli, aveva in fin dei conti utilizzato la sofferenza o magari soltanto gli aspetti ridicoli. Tutti questi esseri che mi avevano rivelato delle verità e che non erano più, mi sembrava che avessero vissuto una vita da cui io solo avevo tratto profitto e quasi che fossero morti per me. Mi riusciva triste pensare che il mio amore, cui avevo tanto tenuto, sarebbe stato così svincolato nel mio libro da un singolo essere, che lettori diversi l'avrebbero applicato esattamente a quanto avevano provato per altre donne. Ma era il caso di scandalizzarsi di questa infedeltà postuma e del fatto che Tizio o Caio potesse dare qualche sconosciuta come oggetto ai miei sentimenti, dal momento che questa infedeltà, questa divisione dell'amore fra più esseri, era già cominciata durante la mia vita e prima ancora che mi mettessi a scrivere. Avevo ben sofferto io, una dopo l'altra, per Gilbert, per Madame de Germain, per Albertine, e una dopo l'altra le avevo anche dimenticate, e solo il mio amore, dedicato a esseri diversi, era stato duraturo. La profanazione d'uno dei miei ricordi da parte di lettori sconosciuti, io l'avevo commessa prima di loro. Non ero lontano dal farmi orrore, come forse farebbe orrore a se stesso un partito nazionalista nel cui nome fossero scoppiate le ostilità e che fosse stato il solo a trarre vantaggio da una guerra nel corso della quale tante nobili vittime avrebbero dovuto soffrire e soccombere senza neanche sapere, cosa che sarebbe stata, almeno per la nonna, una grande ricompensa, l'esito della lotta. E a consolarmi del fatto che la nonna ignorava come io mi fossi finalmente messo all'opera, era soltanto, questa la fortuna dei morti, che se non poteva gioire del mio progresso, aveva smesso da tempo d'essere cosciente della mia inazione, della mia vita mancata, di cui aveva tanto sofferto. E certo non ci sarebbero state solo la nonna, solo Albertine, ma molte altre ancora, di cui avevo potuto assimilare una parola, uno sguardo, ma che come creature individuali non ricordavo più. un libro. È un grande cimitero, dove sulla maggior parte delle tombe i nomi cancellati non si possono più leggere. Qualche volta, al contrario, ci si ricorda benissimo del nome, ma senza sapere se nelle nostre pagine sopravvive qualcosa dell'essere che l'ha portato. C'è qui quella fanciulla dagli occhi profondamente infossati, dalla voce strascicata. E se di fatto vi riposa, in quale parte, chi lo sa più? E come trovarla sotto i fiori?